Letture di Radio 24. A 3 anni dalla pubblicazione della sua autobiografia, Ornella Vanoni torna a raccontare di sé nel libro Piccole storie di Ornella V. Brevi racconti, storie vissute o soltanto immaginate, che si uniscono ai ricordi. In uno di questi, Storia di un incontro, Ornella traccia un bilancio della sua vita alla vigilia del suo 80° compleanno. Se non proprio tutto, ho avuto molto dalla vita. Succede che a un certo punto, quando gli anni sono molti e le stratificazioni diventano pesanti, troppi cambiamenti, troppe corse, troppe emozioni forti di ogni tipo, allora si pensa, accidenti, non mi stupisco più. E allora la cosa può essere molto grave. Come riempirò il tempo degli anni che mi restano da vivere, se sento così? Così incominci a ricordare che c'è qualcuno a cui pensi spesso, ma non hai mai conosciuto. Lui ti può salvare. Lui può ridare alla tua vita quella gioia, quello smalto che appunto ha perso. La persona di cui parlo è Cristo, così felice da amare, così dolce da seguire. Parlare con Lui, aprirgli il cuore, chiedergli consiglio come a un padre, un amico, un fratello, come ad un amante. Mettere la tua mano nella sua e farsi guidare da Lui e... paf! Come un miracolo arriva il miracolo dell'amore, della luce, della gioia. E tutto diventa nuovo. Perché non hai più paura del tempo. Gesù riempie il tempo, ne cambia quasi la scansione, rende tutto più morbido. Il segreto della vita è in Lui. Sei tu che mi stravolgi l'anima. Avete ascoltato la lettura del racconto Storia di un incontro dal libro di Ornella Vanoni, Piccole storie di Ornella V. Giulio Perrone Editore, 96 pagine, 10 euro. Senza pensarci su. Forse hai ragione tu, abbandonarsi a volte aiuta. Sei tu la vita che mi merito. Letture di Radio 24. Sessant'anni fa nasceva la televisione italiana. La radio, che era nata 30 anni prima, all'inizio non si pone il problema della probabile concorrenza. Come spiegano Barbara Scaramucci e Claudio Ferretti nel volume Ricorderai, che ripercorre 90 anni di storia dell'emittente di Stato. L'anno X è arrivato. Domenica 3 gennaio parte la regolare programmazione televisiva. Ed è subito Mike Buongiorno. È sua la prima trasmissione del pomeriggio, dopo che in mattinata alle 11 è stata evasa la pratica dell'inaugurazione in telecronaca diretta dagli studi di Milano e dai trasmettitori di Torino e Roma. Si chiama Arrivi e partenze e va in onda dalle 14.30 alle 14.45. Poi un cortometraggio, quindi un programmino di musica leggera con l'orchestra Rosa Clot presentato da Febo Conti, un altro cortometraggio, Il pomeriggio sportivo e il film Le miserie del signor Travet. Segue per la serie Le avventure dell'arte Giambattista Tiepolo. Alle 20.45 il telegiornale, alle 21.15 Teleclub. Recita la relativa locandina, trasmissione che raduna personalità del giornalismo, della letteratura, dell'arte e della rivista, che intrattengono i telespettatori sui più svariati argomenti. Ovvero il primo talk show della nostra storia televisiva. Alle 21.45 una commedia di Goldoni, L'osteria della posta, poi 7 note. Infine, a chiusura dei programmi, il primo numero della Domenica Sportiva. Il tutto condito da una buona dose di monoscopio che, si è detto per i più giovani, è un'immagine fissa dalle incomprensibili geometrie, che deve servire a regolare l'inquadratura. Al centro un cerchio perfetto che perfetto non sarà mai e nonostante gli sforzi sulle apposite manopole somiglierà sempre a un uovo o a una pera. Nell'epoca in cui la televisione non occupa ancora tutti gli spazi, è questa la trasmissione più seguita. C'è chi rimane con lo sguardo fisso al monoscopio o alle pecorelle dell'intervallo. Ipnotizzato dalle strisce orizzontali nelle quali spesso si disintegra l'immagine, o dal cartello la trasmissione sarà ripresa il più presto possibile. L'importante è guardare. La radio ancora non si pone problemi, anzi, sono in molti, come al solito, i lungimiranti che danno al nuovo mezzo di comunicazione vita breve. E molti quelli, soprattutto tra i giornalisti affermati, che preferiscono non rischiare le proprie rendite di posizione e per il momento restano in radio ad aspettare gli eventi, lasciando ai giovani campo libero in televisione. Si morderanno presto le mani. Chi ha già capito tutto è Mike Bongiorno, che gioca sapientemente su due tavoli. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del libro di Barbara Scaramucci e Claudio Ferretti, Ricorderai, 1924-1954, 2014. Rai Eri Editore, 618 pagine, 29 euro. A differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, in Italia le donazioni ad enti no profit non sono totalmente detraibili dalle tasse e i benefici sono talmente ridotti da scoraggiare la beneficenza. In vista del progetto di riforma del terzo settore, sarebbe opportuno rivedere le norme fiscali, come commenta Chiara Palmerini in un editoriale pubblicato su Panorama. Oltre a essere un tormentone estivo, la campagna per la raccolta fondi Ice Bucket Challenge, quella delle secchiate d'acqua fredda, ha sollevato un dibattito più autunnale. Con la campagna a favore della ricerca sulla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, sono stati raccolti in Italia 1,5 milioni di euro, negli Stati Uniti 100 milioni di dollari. Gli americani sono più generosi di noi? In America le donazioni sono completamente detraibili dalle tasse, qui no. Risponde Massimo Mauro, presidente di AISLA, associazione che si occupa di malati di SLA e che dopo aver promosso la campagna fa da capofila nel sostenere la defiscalizzazione delle donazioni agli enti no profit. Sarebbe un provvedimento concreto e semplice, chiosa Damiano Zazzeron, fiscalista e consulente nell'ambito del no profit. I limiti attuali, deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% fino ad un massimo di 70.000 euro, addirittura scoraggiano le donazioni. Il beneficio è talmente ridotto che spesso il costo del servizio del CAF o del commercialista è maggiore del risparmio fiscale. L'altra notizia che ha fatto indignare in materia di beneficenza e fisco è l'IVA di 300.000 euro dovuta allo Stato per la ricostruzione della scuola di Cavezzo, Modena, distrutta dal terremoto e i cui lavori sono stati finanziati con la raccolta fondi del Corriere della Sera. Su questa IVA iniqua, diversi politici hanno annunciato di voler chiedere provvedimenti da inserire nella riforma del terzo settore, che però riguarda in gran parte aspetti civilistici, come la trasparenza dei bilanci delle associazioni o la razionalizzazione delle varie tipologie di enti, e che soprattutto deve essere realizzata fiscalmente a costo zero. Per questo la probabilità è alta che si tratti di parole in libertà. Se ne discute da oltre 20 anni senza arrivare a niente, dice Zazzeron. Il problema è che l'imposta è regolata da norme europee che fissano paletti rigidi ed elencano tassativamente i casi in cui è possibile prevedere esenzioni. Fuori da questi c'è poco o nessun margine di manovra. Tra le eccezioni non c'è la costruzione di scuole o ospedali, neppure se realizzati grazie alla beneficenza. È per questo che la maggior parte dei paesi europei punta sulla defiscalizzazione delle donazioni liberali per incentivare l'attività delle ONLUS, sia per la ricerca che per l'assistenza sociale. In Olanda, per esempio, sono deducibili al 100% le donazioni fatte ad enti no profit della comunità europea. Negli Stati Uniti, dove avviene lo stesso, un'autorità vigila e gli enti devono dimostrare di essere davvero non a scopo di lucro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Chiara Palmerini «Perché è iniquo tassare la beneficenza?» da Panorama del 17 settembre. La recente crisi di Gaza ha contribuito ad esasperare gli animi degli antisionisti del mondo occidentale, che nel giudicare la guerra in atto spesso finiscono per sposare la causa di Hamas con la sua volontà di distruggere Israele. Episodi di antisemitismo si sono registrati in tutta Europa e, come commenta Paul Berman in un articolo pubblicato sul magazine Il, ci sono intellettuali come Gianni Vattimo, il cui appello ad uccidere i bastardi sionisti ricorda la brutalità dell'estrema destra negli anni 30 e 40. Il filosofo Gianni Vattimo parla a nome di molti quando definisce Israele peggio dei nazisti e dice che vorrebbe uccidere i bastardi sionisti. Per esempio, parla a nome di quei manifestanti che a Berlino hanno cantato «Ebreo, ebreo, porco codardo, vieni fuori e combatti». E parla a nome dei manifestanti di Parigi e delle banlieue che hanno dato fuoco ai negozi, attaccato sinagoghe e urlato «morte agli ebrei». Tolto il fatto che il professor Vattimo, con uno sfoggio di raffinatezza filosofica, distingue tra i bastardi sionisti e gli ebrei in generale, sostenendo che solo i primi meritano la morte. Ma soprattutto Vattimo parla a nome di Hamas. Che cosa significa, dopo tutto, l'affermazione per cui Israele è peggio dei nazisti? Il nazismo è da tutti considerato come il peggior regime mai esistito, il che significa che un paese peggiore del nazismo non può essere altro che l'incarnazione del male assoluto. Un attacco rivolto all'essere, potrebbe dire il professore, il male universale. Questa è esattamente la posizione di Hamas, per le ragioni affermate nel suo statuto e ripetute senza sosta in sermoni e dichiarazioni pubbliche, con la differenza che Hamas invoca Dio, anziché l'essere. L'argomento è fondato sulla teoria dell'eterna cospirazione ebraica, per ottenere la dominazione del mondo in contrasto alla volontà di Dio. È tutto messo nero su bianco nello statuto con le dovute citazioni del protocollo dei Savi di Sion, la classica esposizione della spaventosa superstizione europea. E anche Hamas vuole uccidere gli ebrei. «C'è un ebreo nascosto dietro di me. Vieni e uccidilo», recita lo statuto, citando il Corano. Mi chiedo soltanto perché Vattimo, nell'esprimere le sue idee sul genocidio dei sionisti e tutto il resto, abbia tirato in ballo le brigate internazionali che combatterono per la Repubblica nella guerra civile spagnola. Il professore non sa che durante il conflitto spagnolo gli antisemiti stavano dall'altra parte? Vattimo chiede all'Europa di fornire a Hamas armi migliori. Non è il caso che si preoccupi. L'Ayatollah Khamenei ha già messo a disposizione missili FER-5, proprio come, durante la guerra civile spagnola, Hitler e Mussolini avevano sostenuto i fascisti spagnoli. La solidarietà dell'estrema destra non è mai mancata. Le opinioni delle persone colte e istruite stanno andando nella direzione di Vattimo? Ho l'impressione opposta. Mi sembra invece che per quel che riguarda il terrorismo islamico, la tendenza in tutti i paesi occidentali, seppur di poco, sia più illuminata rispetto al passato. Non è più così automatica la giustificazione della causa islamica. L'umore è meno permeabile all'odio basato sulla superstizione. Si comprende meglio la necessità della democrazia liberale di respingere gli attacchi islamici. Purtroppo il modesto miglioramento dell'opinione generale è accompagnato da un imbarbarimento ai margini. Gli estremisti sono diventati sempre più estremi. Le folle nelle strade di Parigi e di Berlino urlano per strada contro gli ebrei. Gli intellettuali, come Vattimo, farneticano alla radio. Questa gente non deve più preoccuparsi di presentarsi come civilizzata. Il conflitto di Gaza sembra averli liberati dai vincoli moderni. Sono tornati alla brutalità dell'estrema destra degli anni 30 e 40. Sentono un richiamo atavico al peggio del passato. Rivederlo oggi è raccapricciante. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paul Berman, Farneticatori, dal numero di settembre del magazine Il.